Grazie per avermi invitata. Io vi parlo un po' dal cuore dell'impero e volevo fare un resoconto su quella che è la situazione nel Regno Unito a livello di mobilitazione a sostegno della liberazione e della decolonizzazione della Palestina. Allora, dopo l'insurrezione del 7 ottobre e l'inizio del genocidio che si sta svolgendo in queste ore per mano delle forze di occupazione israeliane in Palestina, l'organizzazione Palestine Solidarity Campaign ha organizzato delle manifestazioni ogni sabato. Alcune di queste sono state chiamate a livello nazionale, che si sono svolte poi in parti diverse di Londra, mentre altre, come quella di sabato 18 novembre, si sono svolte a livello locale, il che significa che ogni quartiere ha organizzato la sua manifestazione. Oltre a queste ci sono state delle veglie al centro di Londra, queste sono avvenute soprattutto durante la settimana, particolarmente quando gli attacchi su Gaza si sono fatti più intensi. I numeri dei manifestanti sono andati sempre in crescendo, infatti alla manifestazione di sabato 11 novembre c'erano addirittura 1 milione di persone in piazza, il che fa di questa una delle manifestazioni più grandi nella storia del Regno Unito. Per quanto mi riguarda, questa è stata una delle manifestazioni più potenti della mia vita, caratterizzate da ore ed ore ininterrotte di canti e cori, dove ogni singola persona ha partecipato portando una bandiera, un cartello, un megafono, un simbolo di solidarietà con il popolo palestinese. C'erano kefie ovunque, simboli di Handala, cocomeri, fumogeni, tre bandieroni di oltre 50 metri, alcuni dei quali cuciti dalle madri di alcuni compagni. Queste sono state manifestazioni sempre molto pacifiche che hanno portato insieme molte famiglie, tantissimi bambini, movimenti studenteschi, sindacati e collettivi di vario genere, ognuno dei quali ha partecipato con il suo striscione. Poi, mercoledì scorso, c'è stato il voto in Parlamento rispetto al cessate il fuoco. Quindi circa 20.000 persone si sono radunate fuori dal Parlamento per mettere un po' di pressione, ma nonostante questo la mozione è stata respinta con ben 293 voti contrari, 125 a favore e 232 astenuti. La notizia purtroppo non ci ha sorpresi molto, considerando il ruolo fondamentale che il Regno Unito ha fornito nel processo storico del colonialismo di insediamento in Palestina, ma anche attualmente nel genocidio che si sta svolgendo a Gaza. Quindi, oltre alle manifestazioni, che sono da un lato senz'altro positive, perché portano insieme tutta una fetta di società e di persone che non necessariamente rientrano nella categoria di cosiddetti attivisti o persone del movimento, stiamo lavorando anche su altri fronti. Per prima cosa, stiamo adoperando azioni di disobbedienza civile. Per esempio, abbiamo risposto ai vari scioperi internazionali chiamati dai sindacati palestinesi e alle giornate di azione politica globale, l'ultima delle quali si è svolta venerdì 17 novembre, dove tutte le università si sono coordinate per interrompere le lezioni e di uscire dalle aule a mezzogiorno. La modalità è un po' quella del cosiddetto teach-in, ovvero una specie di sit-in, ma al posto di stare semplicemente seduti, si fanno piccole lezioni fuori in giardino su diversi temi, tra i quali la questione dei prigionieri politici, il BDS e la questione delle azioni dirette, la resistenza palestinese attraverso la letteratura, l'arte e la poesia, ed infine la questione dell'intersezionalità tra lotta di liberazione dal colonialismo, dal capitalismo e dal patriarcato. Inoltre, attraverso i sindacati autonomi e vari collettivi ci sono state diverse azioni dirette per fermare il traffico di armi destinate ad Israele, tra cui ovviamente Elbit Systems. Alcune di queste giornate hanno richiamato oltre 500 persone che hanno manifestato fuori dalle fabbriche e di fatto interrotto l'accesso ai lavoratori e quindi bloccato il commercio di armi per qualche giorno. Per Per quanto riguarda la repressione, purtroppo nelle università è in vigore la legge del Prevent, ovvero una legge antiterrorismo che ha l'intento di prevenire la radicalizzazione di studenti e professori. Ora, il problema con Prevent è che radicalizzazione può significare cose diverse per persone diverse, e il fatto che il termine sia così ambiguo ha di fatto significato che ad oggi soprattutto persone razzializzate vengano prese di mira nelle nostre università. La cosa peggiore è che questa legge permette al governo di aprire un fascicolo su di te ed iniziare ad investigare le tue azioni sia in classe che fuori, per esempio sui social media, senza che tu venga avvertita. Quindi la legge funziona tra studenti, tra professori, ma anche da professori a studenti e da studenti a professori, e porta a segnalare alle autorità ogni forma di dissenso, incluso ovviamente il supporto alla causa palestinese. Per esempio, nelle scorse settimane, molte persone all'interno delle università sono state segnalate per aver utilizzato il termine intifada, che, secondo questa declinazione, sarebbe un termine antisemita. Ovviamente allo stesso tempo qualsiasi supporto, anche esplicito, al genocidio di Israele è invece totalmente tollerato, invocando la libertà di parola e l'autodifesa. Il prossimo mercoledì, attraverso il sindacato universitario, voteremo diverse mozioni dove chiederemo alla nostra università, ovvero il King's College, di implementare formalmente le nostre richieste, che sono sostanzialmente quattro, ovvero l'immediato cessate il fuoco e la fine dell'assedio di Gaza, che, lo ricordiamo, non è iniziato il 7 ottobre, ma almeno 75 anni fa, con la colonizzazione della Palestina e l'espropriazione del suo popolo indigeno, ovvero i palestinesi. La seconda richiesta è la fine del partenariato di ricerca commerciale e istituzionale delle nostre università britanniche con Israele, incluso il disinvestimento dei produttori di armi che alimentano il colonialismo di insediamento in Palestina. La terza richiesta è quella di fare pressione sul governo affinché possa interrompere la complicità e i finanziamenti del Regno Unito con Israele e le sue forze di occupazione. Infine, l'ultima richiesta è quella di porre fine alla repressione, soprattutto per le persone razzializzate che sono state prese di mira nelle nostre università. Una cosa per me è chiara: che le mobilitazioni continueranno incessantemente su tutti questi fronti finché le richieste non saranno implementate. Te lo dico da persona che vive a Londra da quasi 10 anni, qui un movimento come quello italiano non esiste, ma questa ondata di mobilitazioni, così come era stato per le mobilitazioni di Black Lives Matter, stanno davvero politicizzando e arricchendo tantissime persone. Ora la vera sfida è far sì che questa infrastruttura politica dal basso mantenga. Purtroppo la mancanza di spazi, le distanze assurde che caratterizzano Londra, la facilità con la quale le persone vanno e vengono rappresentano ostacoli enormi. È per questo che, a mio parere, oltre a continuare a partecipare alle manifestazioni nazionali, c'è una necessità urgente di continuare ad organizzarsi, soprattutto a livello di quartiere, di posti di lavoro, di collettivi, spingere per il BDS su tutti questi fronti e continuare con le azioni dirette contro questa macchina da guerra globale. Sta già funzionando, a mio parere, il supporto per Israele sta crollando un po' ovunque, i popoli sono già tutti con la Palestina, ora c'è da capire come distruggere il consenso anche a livello istituzionale nel più breve tempo possibile. Ma continueremo a trovare modalità creative per distruggere il colonialismo capitalista dalle sue fondamenta.